Eccoci al cinema su Radio Onda Rossa, Visionari, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, oggi con mezz'ora di anticipo, come spesso e volentieri. In diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio, ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. La scaletta e le informazioni sulla trasmissione le trovate sempre sul sito della radio, sull'home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari, pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. E iniziamo quest'oggi in collegamento con Antonio Flamini della sesta edizione del Nordic Film Fest, la casa del cinema qui a Roma dal 4 al 7 maggio, quindi a partire da oggi. Antonio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, quali sono le caratteristiche del Nordic per chi non lo conoscesse? Allora, tanto per cominciare, se sentite un po' di rumore perché sono qui alla Casa del Cinema, Villa Borghese, che è una splendida giornata di sole, che è la sede storica del Nordic Film Fest. Sì. La cosa principale da dire innanzitutto è che tutte le proiezioni sono ad ingresso libero. Bellissimo. Fine esaurimento posti, ovviamente. Questa è la sesta edizione del Nordic Film Fest, la manifestazione che promuove il cinema e la cultura dei paesi nordici, organizzata dalle ambasciate di Finlandia, Svezia, Danimarca, Norvegia e Islanda, in collaborazione con il circolo scandinavo di Roma. Ok. E quest'anno presentiamo 14 film, sì. 14 proiezioni, 14 lungometraggi, poi documentari, corti, video art, questi ultimi a cura del circolo scandinavo. In totale una trentina di ore di grande cinema nordico. Ok. Senti, la scelta come è stata fatta rispetto ai titoli? Sicuramente intanto guardando sempre al discorso della qualità. Sono tutti film che sono stati premiati a festival internazionali, che hanno ricevuto anche riconoscimenti nei paesi nordici, a cominciare dal primo che presentiamo questa sera, The Happiest Day in the Life of Olli Mäki, la giornata più felice nella vita di Olli Mäki, una storia vera del più importante pugile finlandese, che l'anno scorso ha vinto al Festival di Cannes nella sezione Uncertain Regard. Devo dire che tutti i film nordici spesso vengono premiati all'estero e hanno una grandissima diffusione, e noi cerchiamo di prendere un po' il meglio grazie alla collaborazione che abbiamo con i film institute dei rispettivi paesi. Senti, rispetto ai 14 titoli di questa edizione, qual è l'immaginario di questi paesi nordici per almeno per questa edizione, per i titoli proposti? Ma innanzitutto quest'anno il tema della manifestazione è il viaggio. Ok. Anche perché una manifestazione parallela che finalmente arriva a Roma, sempre qui alla Casa del Cinema, nella parte esterna, è Binordic, organizzata dalle agenzie turistiche dei paesi nordici. È un viaggio in tutti i sensi, quindi declinato un po' in tutti i vari sensi, quindi non solamente il viaggio vero e proprio, ma anche un viaggio interiore, anche un viaggio attraverso i sentimenti, insomma è abbastanza ben articolato. Poi ci sarà una sezione dedicata ai Sami. Anche il logo del festival quest'anno è ispirato ai colori della bandiera dei Sami. Sami è il popolo lappone che vive appunto nell'estremo nord delle regioni nordiche. Quindi presenteremo questi film che hanno ispirazione a questo popolo, perché ricorrono i 100 anni dal loro primo congresso, quindi è una ricorrenza importante, come sono 100 anni dell'indipendenza della Finlandia. Ci sarà un altro evento parallelo che è una bellissima mostra fotografica sul cinema, sulla storia del cinema finlandese, e poi insomma anche altri, le masterclass la mattina che organizziamo sempre con Writers Guild Italia in collaborazione con la SIAE e con Anica. Ci sono molti spunti interessanti, e quindi invito tutti a partecipare e a venire a frequentarci, a vedere. Benissimo, allora ricordiamo alla Casa del Cinema qui a Roma dal 4 al 7 maggio, ci ricordi gli orari e poi i riferimenti web per la programmazione? Sì, intanto il sito web è www.nordicfilmfestroma.com e gli orari sono dalle 15 fino a esaurimento, fino alla mezzanotte. Benissimo. Allora, io ti ringrazio Antonio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori e a presto qui al Nordic di Fest. Ciao Antonio, ciao. Antonio Flamini della sesta edizione del Nordic Film Fest alla Casa del Cinema a Roma, qui a Roma dal 4 al 7 maggio, da oggi fino al 7. Ritroviamo Giulietta Fara della 19ª edizione del Future Film Festival, il cinema del futuro e il futuro non solo del cinema, a Bologna. È cominciata il 2 maggio e andrà avanti fino al 7 maggio, quindi tutta questa settimana. Giulietta, ben ritrovata. Ciao. Ciao. Ci sei? Ci sono. Siamo qui al Future Film Festival. In questo momento c'è un po' di pioggia, quindi ci saranno anche dei rumori, diciamo, di sottofondo, ma le proiezioni continuano e gli incontri anche. Ok, allora, per chi ci ascolta, le peculiarità del Future Film Festival. Il Future Film Festival da 19 anni presenta il meglio del cinema d'animazione e degli effetti speciali, con un'attenzione sempre più, diciamo, importante anche alle nuove tecnologie legate all'immagine, non solo nella sala cinematografica. Infatti quest'anno abbiamo uno spazio tutto dedicato alla realtà virtuale, alla visione in VR con gli occhiali, di contenuti che provengono dall'Italia, dall'Europa e soprattutto dagli Stati Uniti, che sono uno dei paesi più interessanti, ecco, che produce oggi, e molti filmati che vengono per esempio dalla selezione del Sundance Festival. Giulietta, senti, rispetto alle prime edizioni, visto che siamo arrivati alla 19ª, come si è sviluppato e che strade sta prendendo il Future? Ma appunto, Future Film Festival, se vuol dire anche cinema del futuro, è chiaro che non si può fermare alla visione nella sala cinematografica. Abbiamo una fitta programmazione, ovviamente, di anteprime, in concorso con 9 lungometraggi, fuori concorso con 12 lungometraggi, e molto spesso sono anteprime europee o internazionali. Però, come dicevo, l'attenzione è anche molto alle nuove forme, ai nuovi linguaggi della comunicazione. Quest'anno, tra l'altro, abbiamo inaugurato una sessione importante dedicata anche ai workshop, quindi all'insegnare, diciamo, ai giovani e ai meno giovani, a chi vuole, insomma, cimentarsi nelle tecniche del cinema d'animazione, perché sta tornando anche una tendenza verso il lavoro artigianale dell'animatore, quindi il lavoro, diciamo, con la carta ritagliata, con i pupazzi di plastilina, con appunto le tecniche più tradizionali, che invece negli ultimi 10 anni erano state quasi abbandonate. Giulietta, che mondi ci rappresentano gli autori delle opere che saranno presentate? Ah, mondi spesso terrificanti, perché abbiamo molti film anche horror, quindi insomma, sicuramente, sai, gli effetti speciali si utilizzano anche molto nel mondo appunto dei film horror, nel genere horror. Ci sono poi alcuni film che continuano una sorta di tradizione della fantascienza, per cui anche fantascienza però strana, tipo Oh My God, I'm a Robot, che viene da Israele, che è un live action con effetti speciali, ha, come dire, un retrogusto anche della fantascienza degli anni passati, molto molto interessante, ed è anche ironico, quindi non c'è soltanto il genere fantascienza tout court, horror, ma anche un genere così della commedia che attraversa un po' tanti filoni diversi. Abbiamo anche film che vengono dalla Cecoslovacchia, cioè dalla Repubblica Ceca in realtà, film che vengono dal Terra, c'è questo Ethel and Ernest, molto molto bello, previsto per sabato, un film delicatissimo, tutto disegnato a mano, appunto per tornare alle tecniche tradizionali, e lì invece si affronta una storia molto intima di una coppia che vede crescere e andarsene il proprio figlio. C'è poi un film molto interessante che è In This Corner of the World, giapponese, che affronta ancora una volta il tema dell'atomica e quindi della disastro nucleare della Seconda Guerra Mondiale e lo affronta però con una tematica nuova, insomma, con un'attenzione nuova anche alle persone non direttamente coinvolte nel disastro, ma che vivevano appunto nel 44 quel periodo e quel paese. Giulietta, ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Sì, se volete partecipare o vedere comunque meglio nel dettaglio tutte le proiezioni del Future Film Festival, potete andare su www.futurefilmfestival.org. Lì trovate sia la sezione biglietteria sia la sezione programma, dove appunto potete informarvi su tutti i prossimi appuntamenti. Molti, come tutti i festival, sono in contemporanea, quindi sarà dura la scelta, ma così funziona purtroppo nei festival. Senti Giulietta, questi primi due giorni come sono andati? Sono andati molto bene, c'era anche il sole, quindi anche l'umore era un po' più alto, però diciamo che la pioggia aiuta poi ad entrare in sala. Okay. I primi due giorni sono stati pieni di persone. Anche per quanto riguarda l'inaugurazione abbiamo fatto questo doppio evento importante, da un lato appunto la prima italiana di Monster Calls e dall'altro invece questo concerto evento nello spazio appunto all'aperto, che ha presentato il tema di quest'anno, perché il tema di quest'anno è Character Wow, quindi un focus su tutti i personaggi che sono stati creati e vengono creati anche oggi per l'animazione e per i film con effetti speciali. Tra qualche giorno, insomma, possiamo per esempio vedere dal vivo, insomma, in diretta, come sono stati creati tutti gli animali del film Animali Fantastici, appunto lo spin-off di Harry Potter, con l'ospite italo-americano William Gabriele. Benissimo. Giulietta, io ti abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Ciao, ciao, ciao. Giulietta Fara della 19ª edizione del Future Film Festival, il cinema del futuro e il futuro non solo del cinema. Bologna fino al 7 maggio. Con Chiara Giancardi ora per parlare di un'iniziativa che si terrà domani all'Università La Sapienza qui a Roma, una giornata ricca che prevede anche la proiezione di un documentario di cui abbiamo già parlato in trasmissione. Intanto Chiara, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao a tutte e a tutti, grazie. Anche se con te ci sentiamo sempre in ambito teatrale, questa volta cinematografico. È vero, è vero. Sono in veste in realtà di Orrez, in quanto faccio parte della scuola dell'Orrez, perché quest'anno fa parte dell'organizzazione insieme a Militant e Agrofax della Tombasita, e siamo arrivati alla quinta edizione di questo festival antifascista. Siamo molto contenti di ospitare questo film documentario inedito, insomma, che è un'opera prima di Tony Saccucci, un professore di storia e filosofia, che è un film che è uscito il 21 marzo in occasione della giornata mondiale contro il razzismo, e siamo molto contenti, insomma, perché è una storia ritrovata, particolare, cancellata dal fascismo, la storia di questo pugile campione europeo Leone Iacovacci, una storia insabbiata che appunto grazie al libro di Mauro Valeri Tony Saccucci ha riportato, insomma, in luce grazie all'Istituto Luce con questo documentario, e quindi siamo curiosi e appunto Federico di Visionari, la trasmissione di Radio Onda Rossa, molto attenta alle questioni di cinema, e insomma sarà nostro ospite e parleremo di questa storia. Senti, saranno presenti anche chiaramente l'autore del libro e Tony Saccucci per quanto riguarda il documentario. Esatto, saranno presenti, e questo insomma si riempie di gioia, perché così insomma sarà più divertente anche poi il dibattito, la discussione. È importante per noi, appunto, anche per loro, immagino, anche la location, perché insomma stare all'interno del festival antifascista e portare insomma una discussione del genere per loro penso che sia importante, anche perché insomma è comunque diretto a un pubblico giovane, no? Una storia del genere, penso che Altani, insomma, la cosa che gli fa molto piacere, ecco. E quindi speriamo sia partecipato, insomma, sarà all'interno di una giornata intensa. È l'ultima tappa del festival di quest'anno, ci sono già stati altri appuntamenti, presentazioni di libri, e il venerdì 24 c'è stata una grande serata all'Acrobax con una giornata di sport, un rugby, pugilato e calcio e quant'altro, e che poi culmina con una serata musicale con Giorgio Canali, Lucio Leoni, Peppa Bros, lo Stato Sociale. Tra l'altro una serata partecipata, e quest'ultima tappa, insomma, ci sarà, oltre a un dibattito sul 77 molto interessante con Paolo Cassetta, con un amico, Ernesto Scalzone, Giorgio Ferrari, che intorno alle 17-18, poi ci sarà questo verso le 20-20:30 la proiezione del film, e poi abbiamo una serata con il tour come agli ND, li nomi tutti, 13 bar di DJ Ceppo e Cannasuomo, sì, Cannasuomo, e il 17 fino a tarda notte al cazzo di insomma, serata. Ti sento che un po' vai e vieni, Chiara. Ah, mi senti male, mannaggia. Ecco, adesso meglio. Senti, tra l'altro ti racconto questa, rispetto a Giorgio Canali, che è stato ad Acrobax, lui ha curato anche la colonna sonora del documentario Libere, di cui abbiamo mandato l'audio proprio in occasione del 25 aprile per il radioteatro. Quindi tutte diverse cose che tornano, diversi incroci. Lo voglio vedere Libere, ho sì. Sentito belle cose, infatti. Sì. Senti, Chiara, allora ci dici a questo punto l'orario e il luogo preciso all'Università La Sapienza. Ok, la proiezione avverrà all'aperto, avverrà al piazzale della Minerva, dove ci sarà poi il palco dove suoneranno appunto gli artisti che vi ho nominato, sperando che si siano sentiti prima. Avverrà intorno alle 8:30. E quindi dopo il dibattito, poi ci sarà il spazio ristoro, insomma, da bere, da mangiare e tutto quanto. Okay. E quindi vi aspettiamo alle 8:30 alla Sapienza per l'Actum Bandidum Fest 2017. Si può cercare tranquillamente il Pugile del Duce. Si può cercare anche tranquillamente in rete per il festival. Certo, abbiamo varie pagine dell'Actum Bandidum su Facebook, ci sta anche l'evento solo del film, e trovate tutto assolutamente. Chiara, un abbraccio, ci si vede domani sera. Grazie Federico, a domani. Ciao a tutti. Ciao. Chiara Giancardi per l'Actum Bandite nella proiezione del documentario di Toni Saccucci, Il Pugile del Duce, alle 20:30 domani a Piazzale della Minerva, Università La Sapienza, Roma. E ritroviamo anche Francesco Furiassi, co-regista del documentario Run for Freedom. Francesco, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. Allora, mi avevi segnalato questo vostro nuovo lavoro, intanto parliamo della vostra esperienza collettiva. Sì, allora, è un lavoro che divido orgogliosamente con l'amico e collega Francesco Agostini, girato tra Kurdistan iracheno ed Iraq lo scorso ottobre-novembre, quindi dai, una zona molto calda. Siamo andati là con l'idea di fare un documentario, un reportage su quello che accade tra gli sfollati, no? Qui si parla sempre di migranti, di profughi, e questo è un particolare tipo di profughi che non scappano dal proprio paese, ma sono costretti a rimanere dentro il proprio paese, e scappano da ISIS in questo caso, quindi una situazione abbastanza calda. Siamo andati lì con l'idea di girare un video sulla maratona della pace, perché lì a Baghdad e ad Erbil, che è la capitale del Kurdistan, si svolge quest'anno per la prima volta, si è data questa connotazione come maratona della pace, questa gara di corsa dove un po' in faccia a ISIS, in faccia a tutti i problemi, si cerca una propria normalità. Poi da lì una serie di fortunate vicende ci hanno portato a seguire la sorte di un fortunatamente felice sorte di una ragazza, una di queste sfollate che vivono, hanno vissuto nei campi profughi, nei campi anzi dei rifugiati, e siamo riusciti a tornare nella sua città natale, una cittadina vicino a Mosul, dove siamo testimoni di una giornata di storia, perché dopo due anni o dopo oltre due anni siamo e queste persone hanno iniziato a poter ritornare nelle proprie case appena liberate dal controllo di ISIS. Senti, che impressioni da questa esperienza, Francesco? Sicuramente sono esperienze che non voglio essere travisato, ma sono che rimangono nel cuore, sono esperienze molto forti, anche vedere che fanno anche riflettere, no, su quelli che sono veramente dei valori seri, fondamentali, no, della nostra esistenza, della vita. E in questo caso lì c'erano queste comunità cristiane che vivono nel cuore dell'Iraq, appunto l'Iraq sconvolto da questa guerra contro il califfato, e in qualche modo diciamo vedere tutta questa distruzione, ma al contempo la forza, la volontà ferrea di queste persone, anche di persone normali, io direi anche di partigiani, cioè di ragazzi, ragazzini che impugnano delle armi o comunque anche in maniera pacifica tentano di recuperare la propria normalità, soprattutto la propria libertà, no, come dice anche il titolo del nostro documentario Run for Freedom. La propria libertà è una cosa incredibile che ci rimane nel cuore, che mi è rimasta tanto nel cuore. Infatti l'elemento che fa impressione in questi giorni è appunto la determinazione, la fierezza del combattere contro il califfato, il sapere che insomma non riusciranno a piegare la loro volontà di autodeterminazione nonostante tutto gli anni di guerra trascorsi e le varie vicissitudini umane e sociali che hanno vissuto. Insomma, è un elemento veramente forte del vostro lavoro questo. Federico, è assolutamente vero, e proprio sentire queste testimonianze, anche adesso che me l'hai ricordato, mi fa sempre venire un po' la pelle d'oca, no? Pensare a dei giovani, dei ragazzini, dei diciottenni o poco più che si ribellano a quella che è, diciamo, la sorte che gli è stata designata da oltre due anni di occupazione di ISIS, quindi assolutamente confermo quello che hai appena detto. Senti, che forma di diffusione userete per il vostro lavoro? Allora, come per l'altro documentario che mi hai dato la possibilità di presentare, siamo totalmente, diciamo, una produzione indipendente, che lo facciamo proprio per amore di questa forma d'arte, di questo tipo di reportage, per passione, e speriamo di potergli dare un connotato anche di lavoro prima o poi. E la diffusione al momento è diciamo del tutto caseretta, perché non abbiamo una rete di distribuzione, anzi se qualcuno volesse farsi avanti saremmo più che disposti ad ascoltarlo, e per ora stiamo facendo in maniera autonoma delle prescrizioni nel maggior numero possibile di festival, compatibilmente con il nostro budget e con le possibilità logistiche di trovare appunto dei festival che possano ospitare il nostro lavoro, e ci stiamo volta per volta mettendo d'accordo con piccole, insomma, con città, con paesi che vogliono far vedere il nostro lavoro, fare dei dibattiti, delle conferenze riguardanti questa tematica. Senti, a questo proposito ci lasci i riferimenti web per saperne di più, anche per contattarvi? Molto volentieri. Allora, la mia email personale è francesco.furiassi@gmail.com, e la pagina potete trovarci abbastanza attivi sulla nostra pagina Facebook, che si chiama Apri gli occhi senza freni, che è il nome un pochino del contenitore sotto cui facciamo questo tipo di iniziative. Benissimo. Francesco, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie mille Federico, un abbraccio a tutti i radioascoltatori. Ciao, a presto, ciao. Ciao. Francesco Furiassi, co-regista del documentario Run for Freedom. Ezio Leoni di Tycoon Distribution sul film Tanna, in uscita in sala oggi giovedì 4 maggio. Ezio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buonasera a voi, buongiorno, anzi, poi il tempo è brutto e devo dire buonasera. Sembra già sera. Il cinema. Allora, intanto una scelta molto interessante, raccontala a chi ci sta ascoltando, Ezio. Beh, questa è stata la prima scelta della Tycoon Distribution, ma solo che è stata un po' lunga nel reperimento del contratto e quindi è arrivata come seconda, ed è stata una bella botta perché nel frattempo è stato candidato all'Oscar Tanna e non l'ha vinto, però sicuramente ha dimostrato di essere un film che merita di essere visto. È un film molto originale che ha stupito, anche perché è uno dei film, quei film che può benissimo sopportare la concorrenza della televisione o della o dello streaming selvaggio, perché è un film da vedere sul grande schermo, è proprio cinema vero, cinema stato puro. Mm-hmm. Senti, come lo avete trovato? Beh, io ero al Festival di Venezia, ero in Giulia Fipresci, e tra i film che abbiamo visto c'era anche questo, che è stato uno delle, poi è riuscito a vincere la stima della critica. E poi però è passato sotto silenzio, stranamente, si pensava che avrebbe avuto una certa eco, invece nessuno l'ha badato e quindi è stato facile, normale per noi recuperarlo. Mm-hmm. A Venezia era molto piaciuto a quelli che l'avevano visto, ma l'avevano visto in pochi sicuramente. Senti, ci dai qualche elemento di trama per chi vuole saperne più? La trama sui social e in giro ne parlano come una specie di Romeo e Giulietta. In realtà il principio di una storia d'amore contrastata c'è, la differenza è che non c'è tutto il meccanismo drammaturgico di Shakespeare, c'è una cosa molto semplice di questi due giovani che si sono promessi amore e che tutti sanno che si amano, ma che per la storia del custom, che è la tradizione delle tribù, non c'è il matrimonio d'amore pensato, ma solo quello combinato, e lei viene destinata a una famiglia, a una tribù vicina, per tenere i rapporti sociali, perché sono tribù molto ostili e cercano di riappacificarsi con i matrimoni combinati. Mm-hmm. E i due giovani non accettano e scappano, e la fuga crea tensioni ulteriori, e dovranno poi loro nel meccanismo narrativo vedere come risolvere la faccenda. Ma il fatto bello è che è una storia vera, e quello che succede nel film è quello che poi è successo nella storia culturale di queste tribù, che sono tribù dell'Oceania, quindi ben lontane da noi. Mm-hmm. Ovviamente il film è sottotitolato perché non aveva senso doppiare un linguaggio del genere, che potrebbe essere molto lontano dal nostro, sarebbe naturalmente una falsità. Mm-hmm. Perché tutti gli attori sono attori che non sono attori, sono dentro del posto, proprio che i due registi, che erano ex documentaristi, hanno convinto a recitare davanti alla macchina da presa, e quindi è molto verace. Senti, quanto per quello che hai potuto sapere, quanto ha richiesto la lavorazione per questi documentaristi che si sono dedicati a questo primo lavoro di finzione? Un buon anno a sedimentare il lavoro e a controllare che tutto crescesse come doveva crescere, perché molti non erano abituati a farsi riprendere, guardavano in macchina, c'erano un mucchio di difficoltà. Gli attori migliori sono stati certamente il paesaggio, il vulcano, la natura, la giungla, che sono quelli che veramente sono gli interpreti primi del film, perché sembra di essere dentro un vulcano o dentro questa giungla misteriosa. Quando si vede il film ha un fascino esoterico e figurativo eccezionale. Mm-hmm. Ezio, che forma di distribuzione avete scelto? Sempre quella porta a porta, come si può dire, cercando di trovare delle sale. Ne abbiamo trovate poche anche questa volta, come l'altra volta 5 o 6, in prima battuta. Quello che contiamo è che il passaparola e la voglia di trovare del cinema diverso degli esercenti, anche in questo periodo che fra un po' dopo Cannes finirà la bondata di titoli, un po' alla volta lo scopriranno, e speriamo che un po' alla volta possa diventare un fenomeno virale a livello di sala, insomma. Dovrebbe essere un passaparola molto intenso e positivo, secondo noi, più dell'altra volta, che è un film più difficile da entrare in empatia. Questo è proprio molto empatico come film. Mm-hmm. Senti, ci lasci i riferimenti web di Tycoon Distribution per saperne di più sul film? Basta su Tycoon Distribution ha il suo sito web, Tycoon Distribution ha il suo Facebook, ma il film stesso è Fintanna, che ha il suo Facebook, dove ci sono tutte le notizie e tutti i modi per raggiungere, in quali sale, in quali modi poterlo vedere. Ezio, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Va bene, d'accordo, grazie, buon lavoro. Ciao. Ezio Leoni di Tycoon Distribution sul film Tanna, in uscita in sala oggi giovedì 4 maggio. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sempre sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale trasmissioni Visionari, e sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Allora, un doppio collegamento telefonico, perché da un lato abbiamo Stefano Croci e dall'altro Stefano Migliore per quanto riguarda la Caucaso Factory. Se ci siete, battete un colpo. Buon pomeriggio a tutti. Ok, benissimo. Allora, cominciamo con Stefano Croci. Intanto parliamo del prossimo appuntamento della vi ho chiamato per le prossime novità che riguardano questo mese, delle proiezioni, una avviene proprio domani. Allora, Stefano, ce ne parli un po'? Sì, domani a Taranto al Festival Internazionale del Documentario Premio Marcellino De Bazis ci sarà l'anteprima del documentario Tutto in Fiamme. E questo documentario è prodotto da Caucaso in collaborazione con Mai, e io sono il regista e ho realizzato questa regia insieme a Silvia Siberini. Ok, Tutto in Fiamme, di cosa si parla? Allora, noi abbiamo, a partire dalla tesi appunto di Silvia Siberini, che è la co-regista, abbiamo affrontato le persone, le figure più importanti della tradizione buddista in Italia. Abbiamo cercato di scoprire questa religione, questa filosofia, attraverso le persone che hanno dedicato la loro vita a queste pratiche, incontrando attraverso l'Italia centrale vari protagonisti. Ok. È proprio un'indagine che vuole andare al di là del solito cliché di una religione esotica, cercando di scoprire cosa ha in comune, quali domande in comune hanno con una tradizione europea come quella italiana, come la nostra. C'è da dire che i personaggi intervistati sono tutti e cinque italiani, abbiamo proprio per scelta. Okay. E non abbiamo voluto intervistare persone provenienti da paesi asiatici, come comunemente ci si può aspettare. Passiamo ora a Stefano Migliore. Allora, Stefano, invece ci parli dei prossimi appuntamenti al di là della proiezione di domani? Eccomi, innanzitutto grazie mille per questo doppio collegamento. Noi viviamo praticamente in una diaspora, anche se sembra che anagraficamente viviamo nella stessa città. È con grande piacere che invito tutta la redazione, i Visionari e tutti gli amici e amiche all'ascolto, a questo ciclo di presentazioni del nostro progetto di trilogia brasiliana, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare anche insieme a voi verso la fine di ottobre dell'anno scorso, per cui abbiamo presentato questo film che si intitola Lepanto, che ha girato un po' di festival, è andato un po' in sala, ma adesso ritorniamo alla ribalta con invece la presentazione di tutto il progetto, perché Lepanto fa parte di una trilogia, sono tre film che cercano di fare di restituire un'immagine, una fotografia sul Brasile contemporaneo nel contesto dell'avvento di Mondiali di calcio 2014, Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Man mano poi che i lavori procedevano, questo ambiente, questo substrato sociale ed economico è andato sempre più indietro per diventare un qualcosa d'altro, un qualcosa di diverso, per diventare anche un momento di incontro e di riflessione per tutti quanti. C'è una, abbiamo incontrato una universalità nel parlare con queste persone, nell'affrontare, nell'arrivare in questi spazi, che è veramente universale e va ben oltre la contingenza di quello che è stato l'arrivo di mondiali e olimpiadi. Per cui sono tre film, un cortometraggio che si intitola Terra Sem Males, che è stato presentato al Festival di Pesaro l'anno scorso, un documentario per il mercato televisivo che si intitola Historia do Futuro, che sono 50 minuti, che abbiamo presentato in anteprima al Trevi a Roma nell'ambito del Festival delle Terre, e l'Epanto, che è diciamo un po' quello che mette insieme tutti questi personaggi e queste costellazioni che abbiamo incontrato, che spaziano da problemi di crisi economica globale, che si scontra comunque con l'ancestralità di un paese che ha a che fare quotidianamente anche con la gestione dei nativi brasiliani che vivono nelle riserve e che vivono quotidianamente il rischio di perdere la loro terra, ma soprattutto la loro cultura. Questa breve tournée che speriamo che continui per il resto d'Italia parte diciamo dai, questa diciamo la prima tranche dei capoluoghi, per cui partiamo mercoledì 24 maggio al Cinema Massimo, Museo Nazionale del Cinema di Torino, per poi spostarci invece su Firenze. Siamo particolarmente contenti di questo contesto perché si tratta del Cinema della Compagnia, ovvero negli spazi della Mediateca Toscana, della Mediateca di Firenze, che è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione, per cui in altre città dove chiudono i cinema ci sono anche città invece in cui i cinema aprono o riaprono anche a seguito di interventi strutturati sui quartieri. Firenze divide la trilogia in due date, per cui presenteremo l'Epanto venerdì 26 maggio, mentre domenica 28 maggio ci sarà la proiezione di Storia do Futuro e Terra Sem Males, gli altri due progetti. E poi approdiamo nella nostra Cineteca di Bologna lunedì 29 maggio con la presentazione della trilogia completa. Benissimo. Allora torniamo a Stefano Croci, ci racconti un po' in breve l'esperienza Caucaso Factory? Bene, sì, noi nasciamo come gruppo informale all'inizio degli anni 2000. Siamo tutti di provenienza musicale, nel senso siamo tutti musicisti e tuttora siamo musicisti, realizzando spesso colonne sonore per i nostri film. Erano gli inizi degli anni 2000 e parallelamente alla musica abbiamo iniziato a dedicarci al video, realizzando le prime opere di video arte, di documentario, fino a giungere al 2012, dove abbiamo realizzato il nostro primo lungometraggio, The Golden Temple, dalla regia di Enrico Masi, che è stato presentato a Venezia e poi in molti altri festival internazionali, e quello è stato un po' il punto di passaggio per crescere dal punto di vista sia autoriale che produttivo, e siamo diventati anche una società cooperativa e startup innovativa, e poi adesso stiamo sviluppando diversi progetti sia con istituzioni che con in collaborazione con televisioni, creando documentari, focalizzando la nostra attenzione su documentari di tema sociale o relativi ad aspetti più artistici o culturali, diciamo. Benissimo. Allora chiudiamo con Stefano Migliore, a cui chiediamo tutti i riferimenti web per saperne di più sulla vostra attività. Abbiamo un sito internet che si trova visitando www.caucaso.info, dove si possono trovare tutti i nostri progetti, sia Tutto in Fiamme sia la trilogia brasiliana hanno due siti dedicati ai quali si accede o da un link dal nostro sito oppure digitando a fianco di caucaso.info/Brasil per la trilogia brasiliana o All is Ablaze per invece il film del mio collega che presentiamo a Taranto. Abbiamo una pagina Facebook che troverete digitando Caucaso Factory, dove ogni tanto condividiamo qualche cosa, qualche pensiero, e dove si possono trovare tutti i prossimi appuntamenti, ma soprattutto ci trovate in giro per le città, ci trovate anche ogni tanto, molto spesso nelle biblioteche, nelle videoteche, nei foyer dei cinema più belli e più antichi d'Italia, ci trovate nel centro storico di Bologna, se ci volete venire a trovare di persona, che è sicuramente la maniera da noi preferita per avere un contatto. Benissimo, allora un saluto a tutti e due, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi e viva i visionari. ciao. Stefano Croci e Stefano Migliore di Caucaso Factory sui prossimi appuntamenti. E siamo in collegamento con Giuseppe Squillaci, co-regista del film East End, in uscita in sala ieri, mercoledì 3 maggio. Giuseppe, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno. Qui vicino a me c'è anche Luca Scanferla, Scanf, che è l'altro autore, altro regista e altro artista che si è immolato per arrivare alla fine di questo lavoro. Allora, facciamo così, che vi alternate nelle risposte. Intanto raccontiamo un po' di cosa si tratta, raccontiamo un po' di trama a chi ci ascolta. Ok, allora il film è un cartone animato rivolto agli adulti e racconta la storia di un gruppo di bambini che vivono nella periferia est di Roma, in un nuovo quartiere che si chiama per l'appunto East End, e pur di vedere la partita in chiaro rubano senza sapere che cosa stanno rubando, cioè intercettano un satellite americano e lo puntano sullo stadio olimpico per riuscire a vedere la partita a casa. Questo loro gesto scatenerà dei movimenti internazionali, la CIA, la NASA, il Presidente degli Stati Uniti, l'esercito, tutti quanti, la Merkel, Berlusconi, tutti preoccupati, che cercheranno di riportare a posto le cose, creando chiaramente un grandissimo casino. Allora, da dove è partito tutto? Allora, da dove è partito tutto? Noi abbiamo cominciato a lavorare ormai 3 anni e mezzo fa con un disegno su un tovagliolo che veramente, detta così, sembra una cosa che non è vera, invece stavamo chiacchierando, disegnando e abbiamo tirato fuori questi personaggi. Dai personaggi è nata l'idea di raccontare la loro storia. E la cosa divertente è che il tovagliolo con i personaggi è sparito, ma i personaggi sono rimasti loro, nel senso che realmente siamo riusciti a mantenere un po' quella traccia che abbiamo buttato giù all'inizio. Poi chiaramente dal punto di vista invece più puramente produttivo, la realizzazione di questo cartonato si innesta su un percorso di crescita nostra, di collaborazione tra me e Luca, che dura da anni, e soprattutto la ricerca di riuscire a trovare un modo di fare qualcosa di nostro in un film, perché noi abbiamo fatto molto teatro, abbiamo fatto cortometraggi, abbiamo fatto tantissimo come effetti visivi digitali, animazione per altri, però poi riuscire a mettere in piedi una produzione è una cosa molto complessa, e quindi piano piano, lavorando insieme, siamo riusciti ad arrivare a questo obiettivo. Ecco, hai parlato di una questione piuttosto aperta e piuttosto attuale, nel senso, ci sono diversi artisti legati all'animazione che lavorano molto sia in Italia che all'estero. C'è poca animazione però prodotta qui, realizzata qui. Com'è ad oggi realizzare animazione in Italia? Allora, è molto difficile, io in realtà direi che è difficile alla stregua di tutto il resto che riguarda lo spettacolo in generale, l'intrattenimento, Però l'animazione chiaramente sta soffrendo molto, questo un po' principalmente perché siamo indietro su tante cose come industria dello spettacolo e dell'audiovisivo, e poi perché invece sull'animazione l'unico vero committente è la RAI, che fa dei grossi sforzi per produrre animazione, per sostenere un po' il mercato, però intanto è monopolista e poi per sua natura diciamo si rivolge ai più piccoli, e quindi qualsiasi tipo di animazione tende a stare insomma sotto la fascia degli 8 anni, e quindi insomma crediamo che sia un mercato abbastanza limitato, quindi ci sono pochi gruppi, poche società che fanno quel tipo di animazione lì, mentre invece tutto il resto è relegato alla clandestinità, un po' come abbiamo fatto noi. Allora, rispetto alla storia, rispetto a, insomma, a quei personaggi creati su un tovagliolo, come avete poi sviluppato la storia e rispetto a quale pubblico avete pensato? Allora, noi abbiamo cominciato a lavorare senza pensare al pubblico. Okay. Nel senso che abbiamo prima di tutto cominciato a giocare con i personaggi e con gli amici con cui collaboriamo, quindi disegnatori, artisti, musicisti hanno cominciato a lavorare con noi sinceramente senza neanche sapere dove saremmo arrivati, quindi era veramente quasi un divertimento e non sapevamo se ci saremmo limitati a un cortometraggio, a una puntata o a un film. Questa libertà creativa ha permesso a tutti di mettere del loro, quindi noi davamo carta bianca a chiunque volesse partecipare. Chiaramente abbiamo messo più che dei paletti, direi abbiamo dato una strada, perché chiaramente l'unità stilistica che poi emerge anche nel film era fondamentale, però volevamo che ognuno potesse mettere del suo, e così è stato. E quindi poi sinceramente pensiamo sia io che Luca che rispettare il pubblico significhi anche non dargli qualcosa di precotto, cioè dire la cosa giusta per te è questa perché c'hai tra i 12 e i 16 anni, oppure perché ce l'hai più di 18 e meno di 36, allora ti devo dare un prodotto che finisce bene, o fatto di supereroi o con la maglietta, insomma come è tutto targettizzato oggi noi volevamo un po' sfuggire a queste regole, anche perché ci avrebbero limitato. Rispetto all'uscita, come l'avete pensata, come la state realizzando, e anche un piccolo primo bilancio della giornata di ieri? Allora, la distribuzione che si è fatta carico di questa missione è distribuzione indipendente, sì, con Giovanni Costantino che ci sta seguendo con amore e tanta tanta generosità. Dal punto di vista delle sale, oggi siamo ormai in quasi tutta Italia, con una quindicina di cinema siamo già usciti oggi, altri si aggiungeranno nel weekend. Su Roma siamo usciti ieri e su Milano con 3 sale. Il bilancio è più che positivo perché insomma ieri le 2 proiezioni che abbiamo fatto erano già esaurite. Contiamo e speriamo di riuscire a rimanere in piedi, insomma noi siamo molto contenti perché soprattutto le reazioni del pubblico sono oltre le nostre aspettative. Noi pensavamo di avere più critiche, sinceramente invece c'è molto molto molto entusiasmo, quindi sembra che siamo riusciti a trovare la cosa a cui tenevamo di più, che è un canale di comunicazione con il pubblico. A questo punto ci date tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, assolutamente, trovate la nostra pagina su Facebook che è facebook.com/eastendfilm, e invece il nostro sito www.eastend.it. Benissimo, allora un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, venite al cinema che ci serve una mano. Grazie. Ciao cari, ciao. Buona giornata, ciao. Giuseppe Squillaci e Luca Scanferla, registi del film East End, in uscita in sala ieri, mercoledì 3 maggio. Eccoci con Michele Ro, regista del documentario Mexico, un cinema alla riscossa in uscita in sala oggi, giovedì 4 maggio. Michele, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, ciao ciao. Allora, una bella storia, raccontacela un po'. Ma la storia innanzitutto di una sala cinematografica, appunto il cinema Mexico, ma soprattutto la storia di un uomo. che sogna il cinema fin da bambino, sogna di avere una sua sala cinematografica e per tutta la vita lo porta avanti e riesce a fare ciò che vuole col suo cinema. Senti, com'è nato questo documentario? Ma guarda, questo documentario nasce, io sono milanese e quindi la sala del Cinema Mexico la frequentavo da sempre. Poi nasce dal fatto che io ho fatto un film nel 2011, che abbiamo presentato alla mostra di Venezia Cavalli, e come purtroppo spesso succede, visto che escono molti film, insomma la distribuzione non è stata molto fortunata. E io sono uno di quei registi che andava a bussare alla porta di Antonio Sancassani, che è il proprietario del Cinema Mexico, chiedendogli di programmare il mio film. La cosa però non, insomma, andava avanti, ma appunto lui prendeva tempo perché aveva tanti film tra le mani, e è successo che invece abbiamo iniziato a conoscerci e io ho capito che in realtà poco mi importava del film che avevo, ma volevo fare un film su di lui, volevo raccontare la sua storia, perché la storia di un esercente non era mai stata raccontata. Senti, e come hai lavorato su questo soggetto? Ma guarda, ho lavorato in maniera molto indipendente, del resto lavorando raccontando la figura di Antonio non si può che lavorare così. Ho iniziato da solo, perché chiaramente trovare i fondi avrebbe richiesto troppo tempo e io volevo iniziare. E dunque ho iniziato da solo, ho iniziato a seguire Antonio, l'ho fatto per 2 anni, ovviamente per piccoli periodi di tempo, e ho iniziato a filmarlo nelle sue giornate, nel suo lavoro, nei suoi incontri, e piano piano, diciamo, è nato un filo narrativo. Senti, poi a film finito quando ho mostrato il film sono riuscito a trovare molte persone che hanno appoggiato il progetto. Come si è sviluppata nel corso dei decenni la sua esperienza e quali elementi di continuità ha mantenuto? Come si è differenziata? Raccontaci un po'. Ma guarda, Antonio ha una prerogativa, è un indipendente, nel senso che lui ama il suo lavoro e programma il suo cinema come vuole lui. Cioè non si fa programmare da altri, tutti i film che passano dal Cinema Mexico li sceglie lui e li ha selezionati accuratamente, non vuole farsi programmare da altri perché lui ama il suo lavoro, quindi l'indipendenza e la libertà sono proprio alla base del progetto Mexico e arrivano proprio dalla sua passione che ha per il cinema. Poi la cosa bella è che come Antonio ci sono tanti esercenti che hanno storie diverse che però cercano di fare cinema di qualità e lasciare aperta la loro sala e lavorare sulla loro sala, quindi la sua storia, anche se come dire confinata a Milano, ma è la storia veramente di tante persone in Italia che vogliono fare un certo tipo di cinema. Ecco, proprio rispetto a questo, com'è la situazione delle monosala gestite in questo modo? Ma dunque, la situazione del monosala è, cioè, sono chiuse quasi tutte, a Milano sono rimaste veramente in poche e anche per l'Italia, nell'Italia le monosala sono veramente poche, però quelle rimaste, guarda caso, sono delle realtà gestite da persone che amano il cinema e che lottano ogni giorno facendo un'estrema fatica, soprattutto economica, per tenere aperta la loro attività, quindi gestite da gente con passione. Questo. La risposta del pubblico? Ma guarda, la risposta del pubblico è molto molto bella, sono molto coinvolti dalla storia e soprattutto al di là della realtà milanese, quello che sta succedendo e che ci stanno chiamando un po' in giro da tutta Italia, ci stanno invitando il film, chi fa eventi, chi lo tiene una settimana, chi qualche giorno, perché insomma comunque è un documentario, quindi ha una distribuzione un po' diversa rispetto a un film, proprio perché si riconoscono in quella storia lì, quindi prima di tutto i proprietari dei cinema vogliono quel film lì perché si riconoscono e poi la gente piace vedere una storia di questo tipo proprio perché tendenzialmente lo spettatore medio si immagina il proprietario di cinema che la mattina chiama e dice vorrei fare La Grande Bellezza questa mattina, e invece non è così, cioè gestire una sala è tutt'altra cosa. E questo film lo racconta abbastanza bene. Senti, quindi questo dimostra anche che c'è un bisogno, una voglia rispetto, a partire dal pubblico rispetto a questo tipo di scelte. Ma guarda, se ti dicessi di sì, insomma, non mi sento così preparato per dirti guarda sì, senz'altro c'è. Noi abbiamo delle belle risposte, la gente che va a vedere il film esce contenta, felice, soprattutto è interessata al tema che tratta, quindi, e anche tutti i vari inviti che stiamo avendo in giro ci fanno pensare questo. Poi insomma il film è uscito oggi, domani uscirà a Milano, avrà un'uscita un giorno dopo, e quindi diciamo poi inizieremo a tirare i risultati. Io dal mio punto di vista sono molto contento. Senti, ci lasci tutti i riferimenti web per le informazioni? Ok, sì, allora tutte le informazioni sul film, le sale e quant'altro le potete trovare sulla pagina Facebook del film, che si chiama Mexico, un cinema alla riscossa, e verranno continuamente aggiornate perché sono tutte in divenire, nel senso che gli inviti arrivano e quindi aggiorniamo il foglio della nostra presenza e del giro che faremo. Poi sul sito del distributore, che è Officine Ubu, sia sulla pagina Facebook che sul sito internet, troverete tutte le informazioni riguardo al giro del film. Senti, il nome della sala da dove viene fuori? Guarda, il nome della sala è un grosso mistero, nel senso che si chiamava così. Antonio ha ereditato quel nome, cioè si chiamava prima originariamente a inizio secolo Cinema Savona, perché è in via Savona. Dopo la sala è stato cambiato il nome da Savona a Mexico, ma non da Antonio, e Antonio poi l'ha preso alla fine degli anni 70 e ha tenuto il nome. La cosa bella che è un nome perfetto, che è esattamente un connubio perfetto con quello che è Antonio, perché Antonio è una sorta di cowboy col coltello tra i denti, quindi in Mexico che risuona questo mondo un po' Far West, quindi sì, sembra scelto ad hoc, ma in realtà non l'ha scelto lui. Bene, allora Michele, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Michele Ro, regista del documentario Mexico, un cinema alla riscossa, in uscita in sala oggi giovedì 4 maggio. Ed eccoci con Stefano Iacono di Movies Inspired per parlare di un film uscito il giovedì della scorsa settimana a casa nostra. Stefano, ben ritrovato. Ciao a tutti, grazie, grazie per la chiamata. Ci tenevo a questo film al quale avevamo dedicato anche la copertina della scorsa settimana con una foto di scena. Siamo poi nel vivo della questione perché si parla di elezioni in Francia. Raccontiamolo allora a chi ci ascolta brevemente. Sì, sì, è un film che tratta la storia attuale, un attacco frontale a un certo tipo di politica, un attacco frontale in questo caso a quello che sta succedendo in Francia, a Marine Le Pen. È la storia però molto umana di Pauline, che è una infermiera in un distretto nel nord della Francia, un'infermiera autonoma che è ben voluta nel paese, che è ben voluta da tutti e che viene scelta dal partito come immagine, come candidata ideale per le elezioni municipali. Questo è più o meno quello che la partenza del film. Chiaramente un film che ha subito grandissimi attacchi in Francia ancora prima dell'uscita e che da noi invece sta un po' soffrendo la distribuzione in sala un po' minore, ecco, per essere positivi. Il film sta piacendo molto, insomma, noi qui a Torino definiamo il film nostro cinema. A Milano continuiamo, insomma, attacchiamo alcune città importanti, insomma, su Roma invece stiamo un po' soffrendo, come dire, una sorta di momento no del weekend, ma vedremo di tirarci su. Senti, per come lo avete raggiunto questo film? Come vi è capitato? Ma il film è un progetto che seguivo da diverso tempo con Luca Belvaux. Si era lavorato insieme su suo film precedente, 38 testimoni, e quindi abbiamo letto la sceneggiatura, abbiamo seguito passo per passo il progetto, poi c'è stata una lunga trattativa che si è definita poi ai primi di gennaio. Credevamo molto nel progetto, credo fortemente in Tobelbo come uno dei registi importanti del panorama europeo, in grado di raccontare storie diverse, attraversare i generi, e ci interessava proprio questo tipo di approccio al suo cinema, e quindi siamo stati abbastanza veloci nel poterlo preparare, portarlo in sala proprio nella settimana che il weekend dopo le elezioni, quello che sarà il ballottaggio ormai dietro l'angolo, insomma. Senti, quali sono gli elementi del film che più ti hanno convinto? Ma come ha detto anche lui, insomma, il film nasce da quello che era stato il set del film precedente, è uscito in Italia con Satin, Sarà il mio tipo, ovvero l'idea di ripensare ad una persona comune, insomma, una lavoratrice, a quello che in quella regione, che è la regione del nord della Francia, nord di Parigi, insomma, chi avrebbe mai votato una persona come la parrucchiera del film precedente? Quindi nasce un po' da lì, dal fatto che è una storia comune, una storia che poi è anche molto attuale in Italia, se non è quello di prendere delle persone che non hanno uno storico nella politica, che invece vengono catapultati in un mondo diverso e chiaramente poi pilotate anche da delle persone che sono dietro, come dire, a tessere un po' le fila di tutto il meccanismo. Quindi mi interessava molto ancora una volta lasciare spazio anche allo spettatore per ragionare, come sempre i film che scegliamo sono film minori, ma in qualche modo lasciano sempre lo spazio allo spettatore, quindi non ci piace distribuire, insomma, film scontati, ecco, questo immagino che voi lo sappiate, sì. Visto Virgin Mountain, visto Vittoria, sì, tante cose, sì, che abbiamo fatto, sì, l'anno scorso, compreso Cittadina Industria, insomma, sì. Queste sono le storie che ci piacciono di più, e questa era una storia che ha sicuramente tutta una cornice tipica francese, ma che in realtà poi è esportabile, sì. E noi ad esempio in Italia abbiamo avuto ultimamente, insomma, un partito che è venuto fuori dal nulla e chiaramente non ha uno storico così importante come quello che viene raccontato in questo film, ma che ha tante cose in comune con quella che è la storia di questo film. Quindi penso sia un film molto attuale e cercheremo di ritornare in sala a Roma al più presto, insomma, visto che non è facilmente recuperabile in questo momento. Sì, e poi uno degli elementi che lo rendono più universali è tutto il discorso sull'attenzione alla comunicazione, al linguaggio, per comunque veicolare dei messaggi senza apparire quello che poi nella vera realtà si è, diciamo. Sì, certo. Sì, sì, ma sì. È un attacco frontale a Marine Le Pen, al metodo usato per, come dire, cercare, ma non solo in quel partito ma anche in altri partiti, di ripulire l'immagine di ogni partito, sì, quello, sì, di cancellare, sì, in qualche modo la storia, quello di presentarsi in un certo modo, di usare un linguaggio non estremo, ma cercare di arrivare a più persone possibili. Il fatto che il regista ha riscontrato nel nord della Francia un crollo totale della sinistra, e del fatto che il ceto medio votasse esclusivamente destra perché non vedeva alternative, e questo è, insomma, fa pensare molto, quello che sta succedendo. Da noi è un po' più diverso perché è un po' più estrema, però ci sono dei parallelismi legati ad altri movimenti, certo, e certo. questo in qualche modo lo accomuna, come dire, il tema del film, che è un tema, però quello che mi ha preso di più era soprattutto l'idea che fosse una cittadina comune, una persona ben voluta, una lavoratrice, qualcuno comunque che si dà da fare per cercare di migliorare il suo stato sociale, cambiare le cose. Sono un po' affascinato da questo mondo, sì, lontanissimo da quello che era stata la sua vita fino a quel momento. Stefano, in quante sale è ora? No, il film è ancora in circa 20 sale in tutta Italia, abbiamo aggiunto chiaramente delle città che in prima battuta non siamo riusciti ad avere, e quindi siamo a Firenze, continuiamo a essere a Torino, siamo a Milano, Ancona, Bari, Perugia, vicino a Roma lo potete vedere a Tarquinia e a Grottaferrata, e poi ci sono tantissime altre sale che comunque sono in attesa di trovare gli spazi. Come sapete, insomma, il discorso li avete già toccati più volte, noi ci ritagliamo quegli spazi che riusciamo a ritagliarci con grande fatica, però penso che poi alla lunga i buoni film non hanno una scadenza, ecco. Allora, per saperne di più c'è anche la vostra pagina Facebook, giusto? Movies Inspired. Sì, Movies Inspired ha la pagina Facebook, ha un sito web. Noi chiaramente stiamo spingendo tantissimo. Con noi Luca Belvò ha fatto un tour di presentazione del film che è arrivato anche a Roma col Festival Francese Rendezvous circa un mese fa. Quindi la stampa ha avuto la possibilità di vedere il film, di recensire il film, siamo molto contenti del lavoro fatto anche con lui, e il riscontro è stato ottimo. Bene. Da Repubblica, Corriere della Sera, Manifesto, Fatto Quotidiano, insomma abbiamo avuto delle ottime pagine, pagine 99, il lavoro fatto con lui è stato importante. Mi fa piacere, insomma, la vostra attenzione anche sul film, e quindi speriamo di poter farlo rinascere nella sala giusta. Bisogna avere pazienza, come in tutte le cose. Sì. Anche da esercente lo dico, perché spesso bisogna saper difendere i progetti, insomma, e non pensare che siano cose che vanno e vengono di moda, ecco. Noi siamo contro le mode, quindi teniamo duro. Stefano, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie ancora, un abbraccio a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao, ciao, ciao. Stefano Iacono di Movies Inspired sul film A Casa Nostra di Lucas Belvò, uscito in sala lo scorso 27 aprile. In collegamento con Roberto Proia di Eagles Pictures sulla distribuzione del film Gold, la grande truffa di Stephen Gagan, in uscita in sala oggi giovedì 4 maggio. Roberto, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao ragazzi, grazie di aver chiamato. Tra l'altro è il film al quale abbiamo dedicato la copertina della puntata di questa settimana, con una foto di scena nella foresta. Roberto, per chi ci ascolta, come lo racconteresti in breve? Allora, il film è una parabola del sogno americano, che è stato raccontato più volte, ma diciamo in questo caso c'è l'ossessione di un uomo, una storia vera innanzitutto, dell'ossessione di un uomo verso il successo. Quest'uomo calpesterà qualsiasi cosa pur di arrivare ad avere la rispettabilità e la dignità che Wall Street dà agli uomini di successo, quelli che hanno fatto i soldi. Quindi si inventerà delle cose, un inganno, devo dire, molto ben congegnato, tant'è vero che tutta Wall Street ci crede. Nella seconda parte del film però piano piano si cominceranno a vedere delle crepe, e diciamo, come dire, il sogno americano stesso ad essere messo sotto accusa, si comincerà a creparsi quello, perché lui sì è vero che avrà ingannato, ma c'è tutta una comunità finanziaria che era pronta a credergli. Tra l'altro ti aggiungo anche che secondo me è uno dei migliori film dell'anno, quindi l'ho molto apprezzato, e non a caso si svolge negli anni 80, non a caso riguarda la borsa, diciamo un periodo e un luogo che stanno alla base della successiva crisi economica di cui stiamo sentendo ancora gli effetti. Esatto, poi ha una interpretazione straordinaria di Matthew McConaughey, veramente trasformato fisicamente ed emotivamente in questo lupo di Wall Street, senza però averne il pelo, diciamo, quindi comunque verrà anche lui un po' schiacciato. È un film che ha un grande pregio, secondo me. Oltre ad essere una bellissima storia, ha un finale che che spiazza e che sarebbe un crimine rivelare, sarei d'accordo con me. Certo, no, oltre all'interpretazione camaleontica del protagonista a cui facevi riferimento, Roberto, e non solo sul sogno americano ma anche sull'amicizia, è un film piuttosto che va a toccare delle corde piuttosto profonde, mi ha sorpreso anche in questo. Sì, è un bellissimo rapporto tra due uomini, praticamente l'altro è Edgar Ramirez, che è una grandissima ascesa, noi eravamo poi in break con lui e da lì in poi ha fatto un ruolo meraviglioso dopo l'altro, l'abbiamo visto in Joy, l'abbiamo visto in Enter Stone con Robert De Niro, insomma un attore veramente completo. E sì, è questa amicizia che non si sa mai quanto sia dovuta all'interesse in comune. Ripeto, diciamo, alla fine del film ci sarà questo colpo di scena molto bello che, diciamo, farà capire di che tipo, di che natura è il rapporto tra questi due uomini, quindi molto molto interessante, molto bello. Il fatto che sia una storia vera lo rende ancora più, come dire, interessante. Sì. Senti, immagino una signora uscita. Sì, usciamo in 260 copie, misto tra città e multiplex, comunque è un prodotto che va bene sia per l'uno che per l'altro, cioè chi vuole trovare l'azione e la truffa la troverà, chi vuole trovare il momento più riflessivo lo troverà, quindi, come dire, è un classico prodotto che piace un po' a tutti, nel senso che ogni demografico, diciamo, ci trova qualcosa. Sicuramente e... di solida fattura, questo è fuori, sì, di dubbio. Insomma. Sì, assolutamente. Diciamo, è scritto veramente molto bene. Sì, moltissime, sì, delle, sì, frasi che senti nel film sono frasi che ti rimangono dentro. Mm-hmm. Roberto, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie ragazzi, buon lavoro. Ciao. Ciao. Roberto Proia di Eagle Pictures sulla distribuzione del film Gold, la grande truffa di Stephen Gagan, in uscita in sala oggi giovedì 4 maggio. E con questo collegamento chiudiamo questo appuntamento settimanale con Visionari, che torna giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta e sul sito, sempre sull'home page, trovate anche tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione, colonna centrale trasmissioni Visionari, pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info.